Giosia celebrò in Gerusalemme una Pasqua in onore del Signore. Si immolò la Pasqua il 14° giorno del primo mese. Stabilì i sacerdoti nei loro uffici e li confermò nel servizio del Tempio del Signore. Egli disse ai Leviti, che istruivano tutto Israele e sono consacrati al Signore: collocate l'arca santa nel Tempio costruito da Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Ciò non è più un peso per le vostre spalle. Ora servite il Signore, vostro Dio, e il suo popolo Israele. Tenetevi pronti, secondo i vostri casati, secondo le vostre classi, in conformità con la prescrizione di Davide, re di Israele, e di Salomone, suo figlio. State nel santuario a disposizione dei gruppi formati dai casati dei vostri fratelli, dei figli del popolo. A loro disposizione vi sia una parte di un casato dei Leviti. Immolate la Pasqua, santificatevi, preparatela per i vostri fratelli, mettendo in esecuzione la parola del Signore trasmessa da Mosè. Giosia donò ai figli del popolo bestiame minuto, agnelli e capretti, da servire come vittime pasquali per tutti quelli che si trovavano lì presenti. Il loro numero era di 30.000 e in più 3.000 buoi. Ciò proveniva dai beni del re. Anche i suoi capi fecero offerte spontanee al popolo, ai sacerdoti e ai leviti. Chelchia, Zaccaria e Jechiel, sovrintendenti del Tempio di Dio, offrirono ai sacerdoti come vittime pasquali 2.600 agnelli e 300 buoi. Conania, Semaia, Netaneel, suoi fratelli, Casabia, Jechiel e Josabat, capi dei Leviti, donarono ai Leviti come vittime pasquali 5.000 agnelli e 500 buoi. Così il servizio fu pronto. I sacerdoti si misero al loro posto, così pure i Leviti, secondo le loro classi, come aveva ordinato il re. Si immolò la Pasqua. I sacerdoti spargevano il sangue, mentre i Leviti scorticavano la pelle. Misero da parte gli olocausti per distribuirli ai figli del popolo, secondo le divisioni dei vari casati, perché li potessero offrire al Signore secondo ciò che è scritto nel libro di Mosè. Lo stesso si fece per i buoi. Secondo la regola, si arrostì l'agnello pasquale sul fuoco, mentre le parti consacrate furono cotte nelle pentole, nelle caldaie e nei tegami. Il tutto fu sollecitamente distribuito ai figli del popolo. Dopo di ciò, prepararono la Pasqua per se stessi e per i sacerdoti, giacché i sacerdoti, figli di Aronne, furono impegnati fino alla notte nell'offrire olocausti e parti grasse. Perciò i Leviti fecero i preparativi per se stessi e per i sacerdoti, figli di Aronne. I cantori, figli di Asaf, stavano al loro posto, come avevano ordinato Davide, Asaf, Eman e Idutun, il veggente del re. I portieri stavano presso ciascuna porta. Nessuno di essi ebbe ad assentarsi dal suo posto, perché i Leviti, loro fratelli, prepararono tutto per essi. Così in quel giorno fu organizzato tutto il servizio del Signore per la celebrazione della Pasqua e per l'offerta degli olocausti sull'altare del Signore, secondo l'ordine del re Giosia. Gli israeliti che si trovavano là celebrarono la Pasqua, come anche la festa degli azimi, durante 7 giorni. Non si era celebrata in questo modo la Pasqua in Israele dal tempo del profeta Samuele. Nessun re d'Israele aveva celebrato una Pasqua come quella che festeggiò Giosia, insieme con i sacerdoti, i leviti, tutti i giudei e gli israeliti che si trovavano là, con gli abitanti di Gerusalemme. Questa Pasqua fu celebrata nel 18° anno del regno di Giosia. Dopo tutto ciò che Giosia aveva fatto per riorganizzare il Tempio, Necao, re d'Egitto, partì per andare a combattere a Carchemis, sull'Eufrate. Giosia gli mosse incontro. Quegli gli inviò messaggeri a dirgli: «Che cosa ho da fare con te, o re di Giuda? Non è contro di te che vengo oggi, ma contro una casa con cui mi trovo in guerra, e Dio mi ha ordinato di affrettarmi. Cessa perciò di opporti al Dio che è con me, affinché non ti distrugga». Ma Giosia non si ritirò, anzi decise di combattere contro di lui, non prestando ascolto alle parole di Necao che venivano da Dio. Egli attaccò battaglia nella pianura di Megiddo. Gli arcieri tirarono sul re Giosia. Il re ordinò ai suoi servi: «Portatemi via, perché sono gravemente ferito». I suoi servi lo tolsero dal carro e, fattolo salire su di un altro carro, lo condussero a Gerusalemme, dove morì. Fu sepolto nei sepolcri dei suoi padri. Tutto Giuda e Gerusalemme presero il lutto per Giosia. Geremia compose una lamentazione su Giosia. Tutti i cantori e le cantatrici nei loro canti funebri hanno parlato di Giosia fino ad oggi. Ciò divenne una regola in Israele. Ecco, essi stanno iscritti nelle lamentazioni. Il resto degli atti di Giosia e le sue opere di pietà, conformi a ciò che sta scritto nella legge del Signore, le sue azioni, le prime come le ultime, sono descritte nel libro dei re di Israele e di Giuda.